vostro mattino. Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 7:19 e questa è la seconda parte di 24 mattino, il lunedì 30 novembre, quella dedicata alla rassegna stampa. Qualche ascoltatore ci sta scrivendo a proposito di quello che dicevamo sul decreto ristori, sul fatto che arrivi così a ridosso, no, della scadenza, anzi praticamente nel giorno della scadenza, perché è stato approvato nella notte il decreto ristori quater che prevede questo rinvio delle tasse, e però la scadenza per molti adempimenti fiscali arriva esattamente oggi. E sì, ha ragione l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci dice gli F24 immessi in precedenza sono cancellabili fino alla mezzanotte di oggi. Però è vero anche che alcuni sono stati, come dice un altro ascoltatore, lanciati, no? Venerdì scorso il commercialista ha lanciato gli F24 che vanno in pagamento oggi, cosa risaputa da tutti. Io dico semplicemente che per una questione di correttezza sarebbe il caso che lo Stato, e non è la prima volta che lo fa, non è la prima volta che lo fa, e quindi non è un'accusa nello specifico a questo governo. Nel momento nel quale dà il via libera ad un rinvio, questo rinvio venisse fatto, sarebbe utile se questo rinvio venisse fatto con qualche giorno di anticipo rispetto alla data della scadenza. Poi discorso diverso è come vengono assegnati questi ristori e quali sono i criteri, ma ci arriveremo tra un attimo, perché ovviamente sui giornali trovate già molto, molto trovate anche sul Sole 24 Ore, perché in realtà i dettagli, no, erano abbastanza noti, l'approvazione è stata questa notte, ma i dettagli erano noti. La vera grande novità è che si ipotizza per alcune categorie, quelle più colpite, addirittura la cancellazione di una parte delle tasse. Vedremo. Intanto diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani e a che cosa, gli argomenti dei quali parlano. Allora, alcuni si concentrano sul tema del Natale. Centro a numero chiuso, e si parla del centro di Roma, per il Messaggero. A Natale vietati gli spostamenti, è il titolo della Stampa, perché appunto l'ipotesi è che neanche tra le regioni gialle si possa viaggiare nello stesso modo nel quale si viaggiava prima. Shopping, cambiano i colori e tornano gli assembramenti. Se il Fatto Quotidiano se la prende con chi ieri si è riversato nelle strade. Il Corriere della Sera apre con un colloquio, così, come, chiamiamolo così, di fatto un'intervista in forma di colloquio con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il mio piano per i fondi europei, il Premier Conte, coinvolgerò il Parlamento e ai manager darò poteri sostitutivi. La Repubblica, piano europeo per Natale, scuole chiuse e cene in casa. In arrivo alle linee guida della Commissione, mantenere lo stop alla didattica allungando vacanze o didattica a distanza. E poi si parla anche dei ritardi delle case farmaceutiche che mettono a rischio il programma del governo per la distribuzione dei vaccini. A proposito dei medicinali, è l'apertura del Sole 24 Ore questa, l'effetto Covid, meno antibiotici, più antidepressivi e sia le visite via web. Si parla anche del decreto ristori, delle tasse, la nuova agenda in tre tempi. Sia Libero che il giornale si dedicano al tema della patrimoniale. Il governo fa debiti e noi li paghiamo. Perché? Perché nel fine settimana, come vi dicevo, è esplosa una polemica, una discussione su questa proposta di patrimoniale presentata da LeU, da Liberi Uguali e da un pezzo del Partito Democratico, tra questi c'è Matteo Orfini. È stato sconfessato immediatamente sia dal Movimento 5 Stelle che dal Partito Democratico, dicendo un'iniziativa personale, però è un emendamento alla manovra che è stato presentato e che prevede una patrimoniale a partire dai 500.000 euro di patrimonio, casa compresa. Questa sarebbe l'ipotesi. Mettono le tasse e nascondono la mano, è il titolo del giornale sullo stesso tema, mentre invece La Verità ci parla di un Giuseppe Conte indagato per la scorta, abuso d'ufficio. Il Premier finisce al Tribunale dei Ministri, ci fa sapere appunto La Verità. In realtà questo argomento, questo tema lo trovate un po' dappertutto sui quotidiani. quotidiani, perché in realtà la verità ci apre, perché è stato uno scoop della verità che aveva raccontato dell'intervento di alcuni uomini in borghese per proteggere la compagna di Conte, Olivia Paladino, dalle domande dei giornalisti sul mancato pagamento dei dipendenti da parte del padre, che è un imprenditore alberghiero. E qua il tema è l'uso improprio di personale al servizio dello Stato, segnalato da un esposto in procura di Fratelli d'Italia, e quindi si è aperta l'indagine appunto sul Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Sì, poi c'è tutto lo sport, la Gazzetta dello Sport apre sul Milan, dammi il più 5, a centropagina c'è questo Napoli, il titolo è Mara Insigne, punizione gol e dedica a Diego, e poi il titolo su Grosjean, per chi ha visto il Gran Premio di ieri, l'impressionante incidente dal quale poi Grosjean si è salvato, è andato a fuoco durante il Gran Premio del Bahrain, miracolato è il titolo della Gazzetta dello Sport. Oh, molti utilizzano questo termine miracolo, tra un attimo vi dirò perché questo termine miracolo non mi convince per niente. Però fatemi iniziare da qualcosa di un po' diverso, come sempre. E per una volta fatemi aprire partendo dall'estero. C'è una storia che mi ha colpito molto e che viene raccontata da Fabrizio Dragosei oggi nella pagina degli esteri del Corriere della Sera, ed è pagina 19, ed è una storia che arriva dalla Russia, ed è una storia che ha dei punti di contatto, se volete, con vicende italiane che abbiamo raccontato. Penso al ragazzo di Torino che ha ucciso il padre, che come abbiamo ben raccontato tra i fatti di cronaca nel GR, anche qua in rassegna stampa, che maltrattava la madre. Ebbene, c'è un caso che sta dividendo la Russia e riguarda tre sorelle che nel 2017 uccisero il padre che le violentava. Saranno processate per omicidio premeditato, si apprende adesso. Le sorelle Chakaturian, che poco più di 2 anni fa uccisero il padre padrone, che da anni le sottoponeva, secondo il loro racconto, a incredibili violenze fisiche e sessuali. Mercoledì prossimo, dopo numerosi rinvii, avrà inizio la procedura che porterà a dibattere davanti a una giuria popolare uno dei casi che maggiormente ha diviso l'opinione pubblica russa, visto che la violenza familiare, in particolare quella sulle donne, è argomento caldissimo e che vede parti della società schierate su fronti diametralmente opposti. Anche le autorità che hanno in mano il caso hanno avuto problemi a prendere una posizione univoca. In un primo momento, dopo che l'uomo era stato trovato in una pozza di sangue, l'accusa aveva parlato di premeditazione. Poi il vice procuratore generale aveva deciso di riformulare l'accusa, riconoscendo che le sorelle avevano ucciso per difendere se stesse. Alla fine, dopo pressioni da parte di ambienti legati alla Chiesa e ai settori più conservatori, una nuova modifica sarebbero state spinte, dice la procura, da una forte ostilità nei confronti del padre. E allora qual è la storia? Che la moglie Aurelia era stata cacciata di casa insieme al figlio maschio. Mikhail era rimasto solo con le 3 figlie, 19, 18 e 17 anni. Le trattava come schiave, con un atteggiamento da padrone ed antico patriarca. Impediva loro di uscire di casa, le picchiava e le violentava in continuazione. Il 27 luglio torna a casa alterato, accusa le figlie di aver sperperato dei soldi, le fa entrare una alla volta in una stanza e spruzza loro in faccia del gas urticante, e loro tre a quel punto lo uccidono. E cosa succede? Così vi dà anche la misura di quello che succede, di quello che avviene in altri luoghi del mondo. Tutto questo avviene in un momento delicato. Nel 2017 il dibattito era incandescente sugli abusi in famiglia, perché una legge che avrebbe reso più pesanti le pene non era riuscita a passare alla Duma, mentre invece una parlamentare conservatrice, Yelena Misulina, era riuscita a far approvare una norma per depenalizzare i reati minori commessi nell'ambiente familiare, forme di violenza che non provocano seri danni corporali. Nel 99 il governo inviò all'ONU un rapporto nel quale denunciava che 14.000 donne venivano uccise ogni anno fra le mura di casa. Poi, tra le critiche, questo numero si abbassò drasticamente, improvvisamente. Curioso, vero? Mentre le organizzazioni non governative parlano di altre cifre, il governo parla di dice che gli omicidi in famiglia sarebbero stati 1000 e le vittime femminili solamente 300. Questo il racconto che arriva dalla Russia, come dicevo, che ci evoca qualcosa di simile a cose che abbiamo già sentito. Ci fermiamo, una pausa. Quattro mattino. Da giornalista, insomma, esperto importante, ti spieghi perché nessuno parla dell'affare Philip Morris dei 5 Stelle? Buongiorno Simone, ma vogliamo parlare della presa in giro dell'app Immuni? Non ne parla più nessuno, fino a poco tempo fa lo stesso Conte veniva a fare le romanzine per scaricare l'app. Oggi fallimento totale. Ma tutte queste denunce, queste illazioni che sta facendo Trump, che si stanno rivelando tutte essere assolutamente infondate, ma possibile che non possa venire incriminato per calunnia, per diffamazione? Uno non è che può dire le cose così alla carlona. Una riflessione su quanto è successo ieri in Lombardia. Nelle grandi città assembramenti per lo shopping, nei paesini braccati dalla polizia locale perché non ti vogliono far andare dal fruttivendolo di fiducia nel paese vicino. Non male quest'ultimo punto, magari per la Lombardia, io cito sempre, dico... Magari in un paesino sperduto della Val Chiavenna, dove il Covid non si è mai visto, che ci metti mezz'ora a raggiungerlo, un'ora a raggiungerlo dal centro un po' più grande, abitato, più vicino, dove però la polizia municipale è là e ti ferma, sei in zona rossa, amico mio, ti pesco e ti multo. Molti invece appunto nelle città, ieri Torino, Milano, Roma tantissimo. La questione Philip Morris, guardi caro ascoltatore, che da queste parti ne abbiamo parlato della vicenda, al momento non ci sono grandi evoluzioni, devo dire la verità, ce ne siamo occupati, l'abbiamo raccontato qua in rassegna, ne abbiamo riparlato con Paolo Mieri, la vicenda, lo ricordiamo per gli ascoltatori che si fossero distratti, è il fatto che la Casaleggio Associati ha avuto un contratto con la Philip Morris da 2 milioni e 300 mila euro, un contratto di consulenza, è normale che una società che si occupa di queste cose abbia, e contemporaneamente appunto le tasse la tassazione su non sono propriamente le sigarette elettroniche, però quegli strumenti che consentono di bruciare il tabacco, di riscaldare il tabacco, ebbene le tasse su quegli strumenti sono diminuite su iniziativa del Movimento 5 Stelle. Una vicenda della quale ci siamo occupati, se ci saranno ulteriori evoluzioni di questa vicenda ovviamente torneremo a occuparci. Su Trump non mi soffermo, mi pare che tanto quello che sta succedendo nei tribunali americani è quello che vediamo quotidianamente e quindi regolarmente ricorsi respinti, tanto che lo stesso Trump ha detto nelle scorse ore che non sa se arriverà, non sa se riusciranno ad arrivare alla Corte Suprema. 349-238-6666, come sempre per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, gli sms, i messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete, siamo anche in diretta su Facebook, come sempre, quindi andate là, sulla pagina di 24 Mattino, se volete, se avete questa curiosità di vederci anche dal vivo, poi ogni tanto ci mettiamo ovviamente anche altri contenuti, e potete usarlo, se volete, anche come strumento di contatto con noi, Messenger per scriverci, come gli ascoltatori che ci hanno scritto sanno, la risposta c'è, a volte c'è un'uscita qua in radio, a volte no. Allora, da cosa riprendiamo? Riprendiamo dalle questioni centrali, che sono innanzitutto il recovery fund, i soldi europei, e poi il decreto ristori, perché è vero che è stato approvato nella notte, però è vero anche che le direttrici principali di questo nuovo decreto ristori, il decreto quater, il decreto ristori quater, erano ben chiare. Però inizierei dal recovery fund, perché sul recovery fund, esattamente sui soldi europei, c'è un colloquio, un'intervista di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera pagina 3 con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Allora, quello che è importante sapere è che nel fine settimana abbiamo appreso che ci sarà una nuova task force per il recovery fund, per gestire e per progettare le nostre spese dei fondi europei, e che il Presidente del Consiglio ne parla ampiamente all'interno di questo colloquio. Alla scrivania di Palazzo Chigi, descrive Monica Guerzoni, arriva forte e chiara l'eco del, aperte virgolette, chiacchiericcio continuo sulla tenuta politica del Presidente del Consiglio sul futuro del governo. Ma Giuseppe Conte tira dritto come se non temesse più di tanto le critiche, le polemiche, le voci che invocano verifiche e rimpasti. Sul tavolo si accumulano appunto i progetti del recovery fund e il Premier al Corriere vuole dare l'idea che il traguardo sia vicino. Quei 209 miliardi sono per il nostro paese la sfida della vita. Sarebbe doloroso non arrivare fino in fondo, dice Conte. L'Italia è in ritardo? L'avvocato smentisce frenate e rilancia. Riusciremo a dare la svolta? Con l'Europa abbiamo studiato un percorso a scorrimento veloce del recovery. Stiamo facendo tantissimo, nonostante il clima di confusione che ogni tanto si alza. E qua entriamo nell'ambito di come dovrebbe funzionare questa struttura. Ci dovrebbe essere una cabina di regia del Recovery Fund che riferirà periodicamente non solo al Consiglio dei Ministri ma anche al Parlamento. Entreranno Roberto Gualtieri per il PD, il Ministro dell'Economia, Stefano Patuanelli per il Movimento 5 Stelle, oltre al Presidente del Consiglio, che poi oggi pomeriggio farà il punto coi capi delegazione. L'organo politico del recovery si appoggerà a un comitato esecutivo composto da 6 manager, uno per ogni progetto del piano di ripresa e resilienza, persone con forti competenze e capacità di coordinamento. Dobbiamo coinvolgere il meglio del paese, individuando poi 50 nomi per ognuno dei 6 team. E quindi, attenzione, stiamo già parlando di una struttura di 300 persone, esclusi i coordinatori e i ministri. Arriviamo a quindi 309 a questo punto, 310 perché c'è anche il ministro agli affari europei Enzo Amendola. Così dovremmo riuscire a strutturare rapidamente i progetti per il recovery fund. E questa mi pare un po' l'intervista di giornata, questa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e sarà un po' il tema di discussione delle prossime ore, insieme ovviamente al decreto ristori, che come vi dicevo è stato approvato nella notte. I dettagli li trovate anche tecnici sul Sole 24 Ore di oggi, il quale con Lorenzo Pegorin e Giampaolo Ranocchi dà già i dettagli, nonostante il Sole 24 Ore sia del lunedì, venga chiuso il venerdì. In realtà di questo decreto ristori si sapeva già tutto e tutto coincide con quello che ci raccontano Pegorin e Ranocchi, i quali ci dicono che è suddiviso in due classi, le persone interessate al nuovo decreto ristori sono, o meglio, le aziende interessate al nuovo decreto ristori sono divise in due cluster. Quelli che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto legge ristori bis e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse. Il secondo sono coloro che devono limitarsi a riscontrare il codice Ateco dell'attività esercitata e fruiscono dello slittamento. Il secondo cluster sono coloro che, per fruire della proroga del versamento degli acconti 2020 dal 10 dicembre al 30 aprile 2021, devono verificare se vi sia stata o meno la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. Tutto questo per far slittare le tasse, il pagamento delle tasse, gli acconti al 30 aprile. E qua vi voglio portare su un altro paio di elementi che sono quello che già trovate segnalato qua nel Sole 24 Ore abbastanza freddamente e che in via polemica invece viene sottolineato dal Giornale a pagina 4 con Lodovica Bulian, perché il problema è il cambio di colore. Allora, se eravate in una regione rossa fino a venerdì, per esempio lombardi o piemontesi, e siete passati in arancione, come vi dovete considerare ai fini del decreto ristori quater? La risposta è boh. Lo dice abbastanza chiaramente Rodica Boulian a pagina 4 del giornale, dice: lo stretto margine di approvazione pone un problema per attività e ristoranti con sede nelle regioni che da ieri hanno cambiato fascia. Sono diventate arancioni Piemonte, Lombardia e Calabria e gialle Liguria e Sicilia. Stando alle ultime bozze del decreto per le attività di questi territori, il rinvio delle tasse al prossimo 30 aprile non sarebbe più automatico. Dovrebbero dimostrare di aver avuto un calo di fatturato di almeno il 33%. Interpretazione questa che viene data dal giornale. Altri quotidiani danno una diversa interpretazione. Sarebbe il caso che su questo il governo chiarisse quanto prima. C'è poi il paradosso, racconta Boulian, per esempio dei fiorai, che sono rimasti aperti anche nelle zone rosse e per questo esclusi dai ristori. Ma non vendono perché tutto il comparto cerimonie ed eventi si è fermato. Senza ristori, dicono, prevediamo a gennaio un rischio chiusura per il 30% dei negozi, raccontano i fiorai. Ma ce ne sono anche altri, ci ha scritto l'altro giorno proprio su Facebook Gabriella da Napoli. E ve lo do a testimonianza del fatto che questa storia dei codici Ateco, che sono i codici identificativi delle attività, funzionano e non funzionano in una condizione di crisi come questa, perché Gabriella ci dice: ho una partita IVA, ho un codice Ateco 14 13 20, che è quello, realizza abiti su misura. Non è stata considerata degna di ricevere alcun aiuto, però da ottobre limitano i matrimoni e le cerimonie, vietano le feste, a inizio novembre la Campania è entrata in zona rossa e uno che fa abiti su misura, ragazzi, quanti affari volete che faccia? Traffico. Ma parliamo un po' della patrimoniale che sembra colpirà l'80% degli italiani. Perché non ne vogliamo parlare? È chiaro che le tasse sono già pagate. Quando hai un commercialista che ti accredita, ti addebita, scusate, il conto corrente per pagare al 30, chi lo blocca col sabato e la domenica in mezzo? Eh già. Sulla patrimoniale, ma guardi, io penso che ci torneremo su questo argomento, perché ormai è entrato nel dibattito prepotentemente con questa proposta presentata appunto da LeU e da un pezzo del Partito Democratico, immediatamente sconfessata dal governo, da gran parte della maggioranza, sia dal PD che dal Movimento 5 Stelle, e però balla questa cosa qua, l'ipotesi è partire dai 500.000 euro di patrimonio, compresa la casa, però con delle cifre in quel caso abbastanza basse, e però sono 1.000 euro di contributo di solidarietà. Se una persona sta pagando un mutuo, ha subito una riduzione di attività a causa del Covid, e con 500.000 euro in una città, in una grande città, 500.000 euro non è un grande appartamento. Comunque torneremo a parlarne di patrimoniale. Intanto c'è tutta la questione anche sui ristori. Arriveremo anche sui ristori, su quel ragionamento che faceva l'ascoltatore, sul quale, come dicevo, io sono veramente, veramente colpito da come lo Stato, colpito ormai è un'abitudine, però da come lo Stato si comporti in questi casi, ossia appunto arrivare a stretta scadenza per dare il via libera al rinvio delle tasse. Folla e code praticamente un po' dappertutto, soprattutto a Milano, Torino, Roma. La pagina del Corriere è pagina 8 con Stefano Landi e Massimo Massenzio. Folle e code tra i negozi riaperti. Era ora, compriamo i regali. Sono le interviste che vengono fatte a Milano, uno shopping sotto la mascherina. Milano che riapre molti dei 12.000 negozi, il bollettino di guerra, perché così si sentono gran parte dei negozianti con i conti appesi a un filo, dice che più la gente in giro di quella che contribuisce allo scontrino. Tanta ressa, poca spesa. E se a Milano assembramenti e un po' di code ai negozi e un po' di gente in giro si è vista, posto che in giro stanno continuando a vedersi quelle foto fatte in un modo per il quale la folla sembra molta più di quella che è, e quindi prestateci sempre attenzione, posto questo, a Roma invece la confusione c'è stata forte, racconta Rinaldo Frignani sempre sul Messaggero. Una domenica da tutto esaurito in centro, dopo l'assalto del Black Friday, come al massimo in via Laurentina, che è un mall, un grande centro commerciale che ha aperto venerdì, 5.000 persone nel giorno della sua inaugurazione, un sabato da dimenticare con assembramenti e chiusure fra Tridente e Prati. Anche ieri pomeriggio la capitale è stata assediata da migliaia di persone che si sono riversate nelle strade dello shopping per gli anticipi dei regali di Natale. Folla praticamente ovunque, anche all'Appio, al Tuscolano, così come a Viale Libia, altro punto nevralgico del commercio romano. Via Condotti intasata di gente a piedi, lo struscio a rischio contagio è andato avanti per tutto il pomeriggio con le forze dell'ordine a controllare, ma fino a un certo punto, visto il flusso ininterrotto, tanto che si sta pensando di tornare sotto Natale alla chiusura del centro, di pezzi del centro, su questo che titola per esempio, che decide di aprire il Messaggero, che si dedica proprio a questo: Natale centro a numero chiuso. Il vaccino. Oibò, l'intervista a Repubblica di Guido Rasi, 66 anni, ex direttore da pochi giorni, nel senso era direttore fino a pochi giorni fa dell'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali. Che inizia così, ad Elena Dusi a pagina 7 della Repubblica. 95-90-62% i dati diffusi dalle aziende sono buoni per il bar dello sport. Così, La partita deve ancora iniziare e il risultato sui vaccini sarà l'EMA a darlo. Quanto ci vorrà per la luce verde? Chiede Elena Dusi. E come faccio a dirlo? Le aziende parlano alla stampa, ma all'EMA non hanno ancora trasmesso un dato. Ma come? La cosiddetta Rolling Review, che permette all'EMA di analizzare i dati sui vaccini man mano che arrivano, per fare presto? L'EMA ha valutato la fase 1 del test, quella che esclude la tossicità. Ha anche dato le certificazioni agli impianti di produzione di Moderna, Pfizer e AstraZeneca, ma i dati clinici, quelli sui volontari che hanno ricevuto il vaccino e il placebo nella fase 3, non sono ancora arrivati. Cosa dice Rasi? L'efficacia. Non credo ai dati delle aziende. I regolatori si metteranno al tavolo e rifaranno i calcoli da zero. Anche le cifre così diverse diffuse da AstraZeneca, che vanno dal 62% al 90% a seconda della somministrazione di mezza dose o una dose, vanno riviste. Non credo che le aziende abbiano diffuso notizie troppo diverse dalla realtà, ma nei loro comunicati parlano agli azionisti. L'EMA gioca una partita diversa che deve ancora iniziare. E quindi, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, perché ci vuole tempo. Nonostante Rasi dica che all'inizio del prossimo anno avremo 3 o 4 vaccini sicuri ed efficaci, e per la fine del 2021 il numero sarà salito a 6 o 7. Prima di chiudere, un paio di elementi. Vi dicevo all'inizio della rassegna stampa che tutta questa storia di Grosjean, il pilota di Formula 1, come vi dicevo, coinvolto in questo incidente shock in Bahrain, che esce tra le fiamme della sua Haas spezzata in due, tutti i giornali parlano di miracolo. Ma non c'è nessun miracolo, è la tecnologia. Ce lo vogliamo dire che negli anni è cresciuta la capacità della Formula 1 di mantenere in sicurezza i piloti, e questo tentativo ha funzionato. Poi sicuramente c'è un pezzo di fortuna, però qua parliamo di un'auto spezzata in due. C'è da ringraziare, scrive Jacopo Dorsi sulla stampa, pagina 29, innanzitutto l'alo, l'aureola di titanio a protezione della testa imposta tra le polemiche da Jean Todt nel 2018, è pensata dopo l'incidente fatale a Jules Bianchi a Suzuka nel 2014. Proprio la mamma di Jules, Christine, si è emozionata: è fantastico che abbia funzionato. C'è da applaudire l'indistruttibile scocca made in Italy della Dallara, il collare Hans introdotto nel 2003, la velocità e l'efficienza dei soccorsi. Null'altro, non c'è nessun miracolo, è la tecnologia. GR24, ci risentiamo dopo.